Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Estratti de La persona di e con Gioia Salvatori e Gino Maria Boschi. Alle donne, per le donne, sulle donne, alle donne, nelle donne, con le donne, nel femminile, del femminile, del dentro, dell'intimità, del femminile, dell'autocoscienza, della mammografia, delle azalee in piazza, di lui ti ha tradito quel porco, delle donne, nelle donne, sulle donne, dentro, in fondo, profondo, sotto, sotto, sempre dritto, a destra il bagno, a sinistra anche una veranda per prendere un tè, un caffè, una tisana, perché no, anche d'estate. Ma torniamo al tema della donna, di quell'universo femminile tanto misterioso quanto complesso, e andiamo dunque a tentare di raccontare come provare a sbarcare un lunario esistenziale che, amici, è ancora di là da venire. Ecco, ma noi non per questo ci scoraggiamo ed eccoci qui, parole di speranza, parole di conforto, parole che ci raccontano quanto è bello stare al mondo circondati soltanto dalla propria ingombrante presenza. Un messaggio frizzante. Allegria di naufragi. Maestro. Essere donna, che difficoltà. Una canzone sulla spietata condizione femminile nella società. Emanciparsi dalla religione, dal sistema capitalista maschilista. Considerarsi degne di autostima. Ricontattarsi nella psicoterapia. Sostenersi nell'ipocondria. E ti compri manuali e ti leggi giornali, fai la particolare, ma ogni giorno è uguale. La mattina quel limone, mezzogiorno merendino, poi a pranzo un panino e la sera la birretta. Nel tentativo di essere vagamente intrattenuta da una conversazione col maschio della specie su un drone, che male che fa. Leggi tanto giapponesi e ti guardi film francesi, and you're looking for coraggio di trovare nel tuo raggio d'azione una situazione in cui riuscire ad essere te. E invece no, sei troppo speciale, sei diventata troppo speciale. Dici, nessuno mi vuole, ma in fondo tu non lo vuoi, tu non lo vuoi. Contatto umano, tu non lo vuoi il contatto umano, vuoi stare qui sul tuo divano senza lasciarti andare. Che deve fare il maschiono strano, che deve dire il povero cristiano, se sei intellettuale, che cosa ci può far coi tuoi dubbi e le teorie, le storie delle amiche tue, con le tue costellazioni, le meditazioni, le gocce per l'iri, del culto di Isi, del piano astrale, cardamomo in tutti i piatti, tu lo mandi ai matti, gattara senza gatti. Essere donna, che perplessità. Se sono emotiva non vado bene, se sono razionale ammazza, che noia, se sono tranquilla equivale a troia, quanta serenità. recuperare la dimensione selvatica, perché era letto sopra un libro di sinistra. Fingere bene di saper che dire, arrabattarmi per provare a non soffrire ed evitare di impiccarmi ad aprile per la solitudine. Ma io me li compro i manuali, me li leggo i giornali, sì vabbè faccio la particolare, però qua ogni giorno è uguale, la mattina con il limone, mezzogiorno il merendino, poi a pranzo un panino e la sera la birretta. Nel tentativo di essere vagamente intrattenuta da una conversazione di quelle belle sul Movimento 5 Stelle, il male, l'angoscia, la noia, la noia. Ma uno non esce più, è la tortura. Ma io me li leggo i giapponesi, io me li guardo i film francesi, and I'm looking for coraggio di trovare nel mio raggio d'azione una situazione in cui riuscire ad essere me. Ma perché a me questa cosa che nella vita devi essere te stesso mi fa sentire male. E invece no, sono troppo speciale, sono diventata complessa e speciale, tipo nessuno mi vuole, ma in fondo io non lo voglio, io non lo voglio il contatto umano, io non lo voglio il contatto umano, voglio star qui sul mio divano senza lasciarmi andare. Che deve fare il maschio strano, che ne so, che deve dire il povero cristiano se sono mentale, che cosa ci può far coi miei dubbi e le teorie, le storie delle amiche mie, con le mie costellazioni, le meditazioni, le gocce per l'iride, del culto di Iside, del piano astrale, il cardamomo in tutti i piatti, io lo mando ai matti, io lo mando ai matti, io lo mando ai matti, gattara senza gatti, gattara senza gatti, gattara senza gatti, gattara senza gatti, senza gatti, gattara, gattara senza gatti. Gattara senza gatti. Avere già mai le parole per dire mi pare una grande stronzata, avere una vita arronzata che cuci e ricuci ma essa è frittata, avere tre suoni che insieme bestemmiano l'ultimo inutile santo, avere feroce un accanto che mai si rivela figura, avere una brutta natura, il film. Cerco una casa, un monolocale, dove andare a provare a stare, 20 metri quadri di poesia, col bagno che dia su una via, di poveracci come me, con quattro stracci riempio un armadio che confina col letto, il finto parquet, se stendo qui devo buttar comodino, perché è piccolo, cioè non ci stiamo, siamo in piedi, sembra di stare sul tram, capito? È piccolo. I posti in piedi a 550 euro. Non c'è la porta, non c'è il divano, il vicino ti guarda strano. Se allunghi la mano, scommetti, la senti da te. La micragna infinita, la mestizia inaudita. Che bella la vita nel mio piede a terra. E non c'è neanche il bidet. Va più de moda il bidet, non lo mettono più. Passare il tempo a trasformare cose nuove in cose vecchie, in nome del vintage, trovarsi un hobby, ammazzare il tempo per non pensare alla morte. Avevo un tavolino, ci ho lavorato, l'ho trasformato in un comodino, ci ho lavorato, l'ho trasformato in uno. Scendi letto perfetto, col pallet da riciclare, l'orto urbano da coltivare, le melanzane sul davanzale, bricolage per essere alla pace, a bere gli aperitivi con gli amici creativi, a parlare della carriera, che bella sera, beviamo uno spritz e beviamo sto spritz. Ma dentro ai barattoli della Pummarola lo beviamo lo spritz? 8 euro lo spritz. Ci è convenuto, usci. Una conversazione tipo: ho scritto una pièce. Di che parla la pièce? Di due che non comunicano, che non si capiscono. Ho deciso che grugniscono in palco 3 ore, poi dopo fanno l'amore, che mi sembra una cosa che a Berlino nessuno si stupisce. Proprio interpreto il contemporaneo. Una cosa bella, ci viene bene a tutti, le relazioni. Facciamo l'amore, va bene, facciamo l'amore, ma tu ti rattristi, sei sensibile, metti dei dischi, la musica suona, un odore che stona, che è? Che cos'è? Ma che cos'è? Ti devi lavare, c'hai 40 anni, ti devi lavare, ti puoi deodorare, no! Io non ci vengo in un letto disfatto a fumare il tabacco con te, perché sei intellettuale, non importa che ami il Bernini o ti lavi i calzini o te ne vai da qui. Il pap test lunedì 7:15 sul Nano Mentana, lontano, non fa niente, ci alziamo prima, il pap test, presto! Epilogo per una vita, come si può dire meglio, di stenti. Cerco un lavoro, cerco un lavoro, ti prego non mi pagare campo d'aria, sto attaccata alla ghiandola mammaria, mamma e papà, 300 euro, mamma ti prego l'affitto non riesco, sono un artista, devo pensare, c'ho da rielaborare, voglio studiare, vado a fare un corso da cuoco vegano, sto fuori concorso, non ho più l'età, c'ho 34 anni, ne basterebbero la metà, per la canna del gas, la canna del gas, per la canna del gas, la canna del gas. Del gas. E questo pezzo affronta un tema importantissimo, soprattutto per i sociologi dell'ultima ora e per quelli che la vita non gli ha dato niente, eh? Neanche un hobby, eh? È brutto quando è così. Comunque, questo tema, il tema presente nella canzone sono due, principalmente i giovani e l'amore. Cominciamo a dire che non c'è niente che uno odia di più dei giovani, in quanto che i giovani sono giovani, hanno tutta la vita davanti, noi no, molto meno. E poi la combinazione peggiore che si può verificare è che il giovane sia anche di classe sociale abbiente, ecco, malissimo, perché quando il giovane di classe sociale abbiente si innamora, lui spesso ha delle velleità artistiche, malissimo, tragedia, ti vuole cantare l'amore, lui ti vuole raccontare a te bene bene l'amore, e chi siamo noi per impedirlo? Chi siamo, signori? Noi siamo i poveri, e siccome i poveri nella loro meschinità covano per natura odio sociale contro l'agiatezza dei più abbienti, se la prendono e danno vita, come nel nostro caso, a delle canzoni di lotta in cui la maturità, la sobrietà, la razionalità cedono il passo a un più bieco e meschino rosicare, di cui comunque noi, amici, andiamo fieri, perché noi andiamo fieri. Ecco, una fotografia sull'oggi di cui non si sentiva affatto il bisogno. Signore e signori, Flami. Pronto? Oh, ciao, sono Flami. No, guarda, senti, qua una tragedia. No, no, sto murata dentro casa perché questo mi fa le poste da 3 ore e qua sotto urla come un matto. No, no, guarda, ti prego, no, guarda, veramente lascia perdere, sono disperata. Considera che mi sto facendo venire a far fare la French a casa perché questo sta qua sotto e non si leva. Ma che ne so che mi dice, non lo so, ma che mi affaccio se? Ma che mi affaccio, sei matta? Ti pare? Dici? Vabbè, dai, mi affaccio solo perché comunque controllo se ci sta ancora la smart parcheggiata, perché te lo dico, qua sarà pure residenziale, però è pieno di zingari. No, è una cosa incredibile. Guarda, no, ma lo vedi? Lo senti, guarda, metto il telefono, lo senti? Senti quanto, senti che fa? È una cosa tremenda, ti giuro, guarda. Io mi vergogno che i vicini, sei matta? L'amore pariolo è un amore vero, da Vigna Clara al Fleming, io e te 3 metri sopra il cielo, Flami, sono sincero, questo sentimento è vero, t'ho fatto solitario per Natale, Flami. Sì, la villa ce l'hai al Circeo, ma la barca ce la metto io, l'amore tuo, l'amore tuo, l'amore tuo, Flami, sono io, sono io. Hai capito quanto è matto questo? Lo senti? Ma che esagero, Olimpia, cosa esagero, cosa esagero? Ma che carino! No, chi è che è carino? Ma chi? Trippi? Ma il gatto tuo? No, ti prego! No, non mi dire, fa già la cacca nella lettiera! Oddio, ti prego, Olli! No, certo, 2017, gatti totali, totali dei new cani! No, certo! No, comunque sai che c'è, che io rispetto a questo qua che mi sta qua sotto, sai che ti dico? Che io a questo non gli credo, che tanto quando stavamo insieme faceva il deficiente con tutte quante, quindi ma chi gli crede? Non mi frega più niente, te lo giuro. Flami, alla pericena, le ho guardate a malapena, le tue amiche bionde coi cani in borsa, Flami, la mia principessa sei tu, c'ho la smart in doppia fila, che bella Ponte Milvio, d'acqua sua, capito? ho capito, ma lo senti? Ma poi senza senso. E poi comunque fa così, fa tutto il dolce e il carino, ma quando stavamo insieme era geloso, mi controllava il telefono, una tragedia. Certo, è normale, è chiaro, c'hai ragione te. È perché gemelli, porca miseria, certo! Sono matti, sono ossessivi, sono gelosi, controllano! Stai attenta allo smartphone. I codici li so, è la data mia di nascita. T'ho guardato la chat di WhatsApp e facevi la scema con dado flami. Se t'ho detto sei troia è stato per noia. Flami, tua sorella è bella ma non è come te, perché tu sei Flami e tu sei Flami. Se Ludovica ha fatto la fica, per me non è niente, è stato un momento. Flami, Flami, Flami, Flami, Flami, Flami, Flami, Flami. C'è una curva che ti chiama, c'è una curva che ti ama. Oddio, ancora con questo pallone, il calcetto, il calciotto, gli amici, tanto lui risolve tutto col pallone, no? Certo, beh, certo, Ludovica, capito? Gli piace fa il cretino con Ludovica, no? Che Ludovica questa settimana era vegana, la scorsa era vegetariana, poi a un certo punto si metteva solo le righe, poi solo i quadretti, poi non mangia più le mele, che sei matta, poi le rimangia, poi lo sai che cos'è che non ha mai provato? Olli, sai che cosa non ha mai provato Ludovica veramente nella vita? Avere la personalità, capisci? Quella non ce l'ha mai avuta la personalità, perché quella, capisci? L'amore pariolo è fatto di andare alla luce e diventare avvocati, tuo padre ti metta a dirigere l'azienda. Flami, io e te nel terrazzo ci beviamo dei gin tonic, siamo solo io e Flami e la servitù, ma l'amore tuo, Flami. Sono io, oh, oh, sono io, oh. Io ti stringo le mani e tua madre bionda a me mi piace con me, perché tu sei Flami e tu sei Flami, sei la mia Flami, tu sei la mia Flami, sei la mia Flami, ah, ah. E adesso, cucciola, i nomi per i figli, te li ricordi? Giulia, Carolina, Carlotta, Lavinia, Maria Vittoria, Sveva, come tua madre, Ginevra, come la mia, Greta, come mia nonna. E fra tutti quanti, quello che preferisco, che per me resta, Flami. Estratti de La persona di e con Gioia Salvatori e Gino Maria Boschi. Raffaella Misiti e le romane. Raffaella Misiti, voce, Arianna Gaudio, voce recitante, Annalisa Baldi, chitarra, Desiree Infascelli, fisarmonica. Eccime, chi so tutta un fuoco, a brucio de passione più peggio dentizzone. Mario, do stai? Ti inguatti in caso mai? Ecco che mi ritorna il mammadrone, ma è per via della passione. Avvampo come fossi in fogheraccio, non so quel che mi dico. O quel che faccio? Tu dimmi che destino, me vado a incapricciare sto burino, quando c'ho tutta Roma in ginocchioni. Mm, noi ad aretta Roma, che t'hanno goionato, sto morto a pennolone, è morto suicidato. Se invece poi te dicono che un morto si è ammazzato, allora è segno certo che l'hanno assassinato. Voglio cantare così, fior de granato. Che fai? Non mi rispondi, me canti no stornello, lo vedi chi è il padrone, insorgi via il cortello, andiamo dai Roma, chi se fa pecorone, il lupo se lo magna, abbasta lo scossone. Voglio cantare, vabbè, fior de limone. Ah. Faccia denunzia, core adorato, che stanotte dan vita fa l'amore, e il cielo è tutto quanto imbrillantato, la luna manna sfascio lo splendore, e tira un venticello dolce dolce, che fa tremare le foglie d'acio d'acio, a quando a malapena che le storce, me fai appiccicà tra loro un bacio. Ah. A faccia denunziata, doccuccia de cerasa, fravola inzuccherata, fatte vedere lassù. A faccia denunziata, doccuccia de cerasa, fravola inzuccherata, fatte vedere lassù, lassù. Però ci manchi tu, ne sta nottata, ci manca la bellezza di quel riso, quando t'affacci tu, che sei una fata, sto mondo si trasforma in paradiso. Quando t'affacci tu, tutte le stelle brillano di bellezza e di chiarore, perché tu sei la bella tra le belle, che può competere con qualsiasi fiore. A faccia denunziata, Puccia de cerasa, bravola zuccherata, fatte vedere lassù, a faccia denunziata. Puccia de cerasa, bravola zuccherata, fatte vedere lassù, lassù. Rondini, malinconia de sole, penso a te che non vuoi bene a me. Cantano nell'aria le parole, e so quelle parole che non vorrei sapere. Mi dice sempre il cuore, sta zitta e non parla nemica dell'amore. È la sincerità, ma quando tu mi guardi io non so più mentire. Te voglio tanto bene e te lo voglio dire. Pallida s'affaccia già la luna, penso a te che non vorrei vedere. Perfido sei tu come nessuno, però come nessuno te sei legato a me. Mi dice sempre il cuore, sta zitta, non parla nemica dell'amore. È la sincerità, ma quando tu mi guardi io non so più mentire. Te voglio tanto bene e te lo voglio dire. Ma quando tu mi guardi io non so più mentire. Te voglio tanto bene e te lo voglio dire. Quando che nonna mia pigliò marito, non fece mica come tante e tante che dopo un po' se trovano l'amante. Lei in 50 anni nulla ha mai tradito. Dice che un giorno un vecchio, un preciuttito che gli voleva fare da spasimante, gli disse: va regalo sto brillante, si venite a piavvelo in un sito. Un'altra al posto suo, come succede, gli avrebbe detto subito: so pronta. Ma nonna, che era onesta, non ci andiede, anzi gli disse: statene lontano. Tanto che adesso, quando la racconta, e ancora ci si mozzica le mani. Bella ragazza che c'hai 100 amanti, affacciate in tantina la loggetta. Se sei maritunati tutti quanti, per fatela sentire sta canzonetta. Paraponsipo, paraponsipo, paraponsipo, paraponsipo, come canti bene, come canto bene. Arrivacci un po', arrivacci un po'. C'è Peppino, c'è Ninetto, c'è sta Pippo l'avvocato, c'è Gigetto, c'è il Tarmato, chi a vedere che bisca c'è. Scendi giù bell'angioletto, te li conti con la mano. C'è sta puro il sagrestano, siamo in 123, paraponsivo, paraponsivo, come canti bene, arrivace un po'. Tete, sappiamo tutti qualche cosa, che c'ha i nastri lilla, le mutande, le giarrettiere so tutta rosa, e arbusto porta il cappio a così grande, paraponsipo, paraponsipo, paraponsipo, paraponsipo, come canti bene, arrivaccia un po'. C'è Donato, lo stallino, c'è Pietruccio, c'è il pelato, il medice sta a posto, lo sciancato, stanno tutti aspetta a te, scendi giù bell'angioletto, mo non passa più nessuno, c'è contenti a uno a uno, 723, paraponsivo, paraponsivo, come canti bene, mi piace un po', parlasse la stanzetta a mano manca, che n'avrà vista qualche d'una grossa, la carta che era tutta quanta bianca, per la vergogna è diventata rossa, paraponsivo, paraponsivo, paraponsivo, paraponsivo, come canto bene, come canta bene, la rifaccio un po', vi è sentito sto concertino, titta suona l'organetto, pippo e flauto ma non c'è, e ninetto, la chitarra sta suonando, scendi giù sul portoncino, mo non passa più nessuno, e te credo, c'è contenti a uno, 723, paraponsivo, paraponsivo, come canti bene, arrivaci un po', paraponsivo, paraponsivo, come canti bene, arrivaci un po', paraponsivo, paraponsivo, come canti bene, arrivaci un po'. Tutti oramai lo chiamavano Don Ciccio. Era il dottor Francesco Ingravallo, comandato alla mobile, uno dei più giovani, ubiquo ai casi, onnipresente sugli affari tenebrosi. Di statura media, piuttosto rotondo della persona, o forse un po' tozzo, di capelli neri e folti e cresputi, che gli venivano fuori dalla metà della fronte quasi a riparargli i due bernoccoli metafisici dal bel sole d'Italia. Aveva un'aria un po' assonnata, un'andatura greve ed inoccolata, un fare un po' tonto, come di persona che combatte con una laboriosa digestione. Vestito come il magro onorario statale gli permetteva di vestirsi, e con una o due macchioline d'olio sul bavero. Una certa praticaccia del mondo, del nostro mondo, detto latino, benché giovine, 35enne, doveva di certo avercela. Una certa conoscenza degli uomini e anche delle donne. Quando i due agenti gli dissero: «Se devo sparare a via Merulana, al 219, sulle scale, nel palazzo degli messicani!», un fiotto di sangue, incuriosito, forse angosciato, gli inondò il ventricolo di destra. Intanto gli entrò nella stanza il capo della investigativa. Aveva il messaggero ancora indelibato e un petalo, un solo petalo bianco, all'occhiello. «Sciure mandurlo», pensò Ingravallo, interrogando il superiore con gli occhi. «Il primo della stagione. Ci andate voi, Ingravallo, a via Merulana? Vedete un po', va. È una fesseria, mi hanno detto. Stamattina ho quell'altra storia della Marchesa dei Viale Liegi e poi il pasticcio vicino a Bottego Oscure. Sicché, fatemi il piacere, va. Andateci voi». «Iammoce», disse Ingravallo e poi borbottò. «Iamocenne», e prese giù dal piolo il cappello. I due agenti gli andarono dietro quasi per un tacito ordine del commissario capo. Erano Gaudenzio, noto alla malavita come il biondone, e Pompeo, detto invece lo sgranfia. Saliti sul PV e discesi appunto al Viminale, presero il tram di San Giovanni, sicché in una ventina di minuti raggiunsero il civico 219. Il palazzo dell'oro o dei pescicani che fosse era là, intignazzato e grigio. A giudicare da quel tetro alloggio e dalla corte delle finestre, gli squali dovevano essere una miriade. Pesce canuncoli di stomaco ardente, questo è certo, ma di facile contentatura estetica. Vivendo sott'acqua, d'appetito e di sensazioni fagiche, in genere il grigiore, o certa opalescenza superna del giorno, era luce per loro. Quel po' di luce di cui avevano necessità. Quanto all'oro, beh sì, poteva darsi benissimo ci avesse l'oro e l'argento. Una di quelle grandi case dei primi del secolo che ti infondono solo a vederle un senso d'uggia e di canarinizzata contrizione. Il contrapposto netto del color di Roma, del cielo e del fulgido sole di Roma. In Gravallo si può dire la conosceva col cuore, e difatti un lieve batticuore lo prese ad avvicinare con i due agenti la ben nota architettura investito di tanta e tanto risolutiva autorità. Davanti al casermone color pidocchio, una folla. Donne, sporte e sedani, qualche esercente d'un negozio di là col grembiule bianco e col naso in veste in colore d'un meraviglioso peperone, portinaie, domestiche, ragazzine delle portinaie che strillavano «Adepi!», maschietti col cerchio, un attendente saturo d'arance prese in una sua gran rete con in cima i ciuffetti di due finocchi e di pacchi, due o tre funzionari grossi che in quell'ora matura agli alti gradi avevano appena disciolto le vele, diretti ciascuno al suo ministero, e un 12 o 15 tra perdigiorno e vagabondi vari diretti in nessun luogo. Un portalettere, in stato di estrema gravidanza, più curioso di tutti, dava della sua borsa colma in culo a tutti che borbottavano «Mannaggia!» e poi ancora «Mannaggia! Mannaggia!» uno dopo l'altro, man mano che la borsona perveniva ad urtarli nel di dietro. Un monello, con serietà tiberina, disse «Sto palazzo, Drento, c'è più oro che monnezza!» Tutto attorno, la fascia delle ruote delle biciclette, come un derma sui generis, pareva rendere impenetrabile quella polpa collettiva. Aiutato e quasi preceduto dai due agenti, in Gravallo si fece largo. «A polizia!» disse qualcuno. «Fa passare o sgraffia, maschie! Addio, vabbè! Ma che l'ha guantato, il ladro? Mo cerbionno!» Il fattaccio era occorso un'ora prima, che era poco dopo le 10. «Un'ora incredibile!» Nell'andito e in portineria un'altra piccola folla. Inquilini dello stabile, il cicaleccio delle donne. In Gravallo, seguito dalla portinaia e dai due e dai commenti di tutti, «Polizia! Polizia!» salì al terzo piano, scala A, dove abitava la derubata. Giù seguitò la gran ciarla. Le voci spiegate o addirittura canore delle femmine emulate da qualche trombone maschio a quando ne venivano addirittura sopraffatte come le cervicichine delle vacche dal gran corna del toro. La ragione della folla raccoglieva i trefoli delle testimonianze iniziali dei «Giuro che l'ho visto!» e principiava a intortigliarli in un epos. Si trattava di un furto, più precisamente di una rapina a domicilio, mano armata. Amore, amore, amore, amore mio, in braccio a te m'è scorto ogni dolore. Voglio resta con te, se non me moro. Voglio resta con te, se non me moro. Voglio restare con te, se non me moro. Non piagne amore, non piagne amore mio. Non piagne, state zitto su sto core, ma se te va a soffrire, dimmelo pure. Quello che mai da di, dimmelo pure. quello che mai da di dimmelo pure. Te penso, amore, te penso, amore mio. Tu sei partito e mai lasciata sola, ma tu non sai che sento nel seno mio. Ci sento un figlio tuo che me consola. Ci sento un figlio tuo che me consola. Ci sento un figlio tuo che me quando te voglio bene, io te voglio bene tutto. Felice, sereno, triste, depresso, ingiusto, egoista, generoso o dubinse una tenaglia. Quando te voglio bene, io voglio bene a tutto. A qua santa donna di tua madre, a quel brav'uomo di tuo padre, ai tuoi fratelli, a tua sorella, all'amica tua più cari, a tua moglie. Soprattutto a lei, e pure a tuo marito se ce l'hai, e perché no? Ai tuoi figli, ai nipoti, al cane, al gatto tuo, e pure alla tartaruga e al pesce rosso. A quel ramo che entra drento alla finestra di camera tua, a quell'albero di cerase che c'hai là drento al giardino, al pizzicarolo dove fai la spesa, all'album de foto che ti piace, al segno zodiacale, ai pedalini tua bianchi e corti, e alla puzza tua dei piedi. All'odore che c'hai, che non mi scordo, alle mani, agli occhi belli, alla curva delle spalle, al sorriso e ai capelli. E quando te voglio bene, io a te te do tutto. Casa mia, il letto, le lenzuola belle e fresche, puro le fette biscottate te do, piene di burro e marmollata. Te do l'acqua, la birra, il vino mio, il tè alla menta che a me mi piace tanto. Te do il lavoro mio, che lo vuoi. Il sentimento te do, l'amore, la comprensione, quel po' de cuore che mi è rimasto intero. Quando te voglio bene, io a te te do tutto, io per me non voglio niente, io te do tutto a gratis, tranne il dolore mio e il male che mi fai, quello amore caro e bello. Quello no, quello se paga. Quelle parole che non mai detto, nascoste nel cuore, strozzate nel petto, un giorno di questi te verranno a cercare e poi te diranno: ma che stai a fare? Allora de botto te usciranno tutte con gli occhi agitati, con le labbra asciutte, le mani per l'aria, parlando con chi non c'è avuto il coraggio e sapei le di. Zitto. zitto, zitto, zitto, zitto sta l'amore, zitto, zitto, zitto che non può parlare, perché sta cercando le parole, perché sta cercando e non le può trovare. Zitto, zitto, zitto, zitto sta l'amore, zitto, zitto, zitto che non può parlare, se no devo dite che c'ho pieno il cuore di tutto st'amore che me sta ammazza, se no devo dite che c'ho pieno il cuore di tutto st'amore e che te odio pure. Quelle parole che non hai mai detto, nascoste nel cuore, rinchiuse nel petto, un giorno di questi le saprai ritrovare. Per dittele tutte, per non soffoca. E t'hanno pesato in tutti quest'anni, perché hai fatto finta con me di l'inganni. Eppure bastava volerlo vedere, che quelle parole le sapevi da te. Mo, lo sai, l'amore va parole e baci e puro silenzio che potenze sta, pieni di calore, pieni di presenze, pieni d'amicizia, pieni d'onestà. Mo, lo sai, l'amore va parole e baci e puro carezze, vogliono di che, non me manca niente, non me manca niente, non me manca niente se io sto con te. Non me manca niente, non me manca niente, non me manca niente se io sto con te. Non me manca niente, non me manca niente, non me manca niente se io sto con te. Non mi manca niente, non mi manca niente, non mi manca niente se io sto con te. Quando che lo scorpione si innamora, chiama la scorpioncina, gli si accosta e lì gli fa la solita proposta, come se fosse proprio una signora. Pia un pretesto per portarla a spasso di dietro a qualche sasso, gli zompa addosso e poi credo che su per giù fa come noi. Ma il divario sta in questo. La compagna, appena che ha finito il pangrattato, s'avventa sull'amico disgraziato, l'ammazza, lo fa a pezzi e se lo magna. Una volta in campagna vidi sta scena e dissi in mente mia: sarà qualche delitto passionale, soliti drammi la gelosia. Ma la scorpiona indovinò il pensiero e disse: non è vero, per noi altri è un istinto naturale, la legge più bella che ci sia. Noi sappiamo che il maschio è traditore, finché gli annamaciccio è così buono che ci spalanca tutto, anima e core, e ci mette su un trono. Ma appena trova quello che cercava e si è levato i capricci sui, monta sul trono lui, e la povera femmina è la schiava. Io però, che so furba e previdente, per non vedere la fine dell'amore, ammazzo il maschio anticipatamente. E con aria da soddisfazione, la scorpioncina agnede fra le piante, per osicà la coda dell'amante, l'ultimo avanzo della relazione. Canzona de sto core appassionato, che spasimi per lei tutte le pene, fai e senti col canto delicato sta fiamma che me brucia nelle vene. Di che per lei soltanto io smanio, soffro e canto. Nell'aria dolce e tenera assieme col profumo di ogni fiore, porta una nota limpida con l'eco de sto core che dice con una voce d'incantesimo: amore, amore, amore. Chitarra che m'accordi in fa minore, mentre la notte è limpida e stellata, fa che quest'eco che sussurra amore lo senta pure lei, la meglio fata, che dorme tra l'incanto all'armonia del canto, nell'aria dolce e tenera, assieme col profumo di ogni fiore, porta una nota limpida con l'eco de sto core che dice con una voce d'incantesimo: amore, amore, amore, amore. Sor delegato mio, non so un boiaccio. Fatemi scioglie, ma racconto tutto. Quando ho finito poi mi rilegate, ma adesso, per piacere, non mi date st'umiliazione dopo tanto strazio. Ma ringrazio. Quello che ha pubblicato il messaggero sul fattaccio del vicolo del Moro, sor delegato mio, è tutto vero. No, pa' vantarmi, voi ce lo sapete, sono stato sempre amante del lavoro e è giusto che per questo mi chiedete come. La mano mia, che è stata avvezza a manovrare la lima col martello, con tanto sangue freddo e sicurezza, abbia spaccato il cuore a mio fratello. Abitava mio al vicolo del Moro, io con mia madre e mio fratello Gigi. La sera tornavamo dal lavoro e la trovavamo accanto alla loggetta, buona, tranquilla, con quel viso bianco che cantava: fior de gaccia, io so contento con altri due. Al mondo non ve sta chi peso mia. Poi Gigi se cambiò, se fece amico con i peggio bulli dell'Urione, passò al lavoro, pazzi con panico. Poi fu proposto ammonizione. De più, mi fu avvisato da gente che quando io non c'ero, mio fratello tornava a casa per fare prepotente. Per Garaghella, amici, l'osteria, votava i cassetti del commò e quel poco che c'era l'infamia finiva mano a mano. Lei però non rifiatava, non diceva niente, ma non rideva più. Più non cantava mia madre bella accanto alla loggetta. Un giorno gli feci: ah, ma che vi sentite? Voi state male, perché non me lo dite? Non rispose, ma fece un gran sospiro e gli occhi gli esempirono di pianto. Nel vederla soffrì, pur io soffrivo, ma che avevo da fa? Chiamai il dottore. Disse che il male suo stava nel cuore e che se fosse presa in dispiacere si non voleva morire di crepacore. La sera stessa forse parlò con Gigi o trovai e feci: Agì, mamma sta male assai, non me la fa morire di dispiacere. Gigi mi fece una risata in faccia, alzò le spalle e poi mi disse: senti, senza che mi sta a fare tanti lamenti, faccio come mi pare. E poi del resto, se te va bene, non mi guarda più in faccia. E me lassò così, lì sul cantone, col cuore sfranto. Ritornai da mamma, gli feci: amà, se mio fratello ritorna a casa per fare prepotente, ve giuro che succede uno sfracello. No, no, per l'amor di Dio, figlietto bello, Gigi non è più lui, è una passione. Sono amici che l'hanno trasportato. Poi mi dette un bacio, a benedizione, e col viso bianco come cera, per non piagne, mi disse: buonasera. Ieri a mattina che successe il fatto, sarà stato, che so, verso le 7. Mi parve da sentì come una lotta. Mamma diceva: Aci, non te compromette con tuo fratello, dammi qui il brillocco, è l'ultimo ricordo di tuo padre. E non te da scordare che so tua madre. E che mi porta a me di mio fratello? Se vuoi assaggiare la punta del coltello, venga pure di qua. Beh, fu un momento. Saltai giù dal letto, spalancai la porta e mi misi di faccia a mio fratello con le braccia incrociate sopra il petto. In quel momento mi parve da sentire una cosa calda che mi saliva in faccia. Poi mi intesi gelà, fece: che vuoi? Io voglio che te ne vai, senza che mi fai tanto il prepotente, senza che stai a fa tanto il boiaccia. Mia madre, prevedendo la questione, si mise in mezzo per portare la pace, ma Gigi la scansò con uno spintone e poi mi disse: a voi, Sor Santarello, ve ci vorrà una piccola lezione. E detto questo, aprì il cortello e me s'avventò addosso. Mamma se stava per rimettere in mezzo, frattanto che Gigi dà la botta. Io la scanso, ma mamma dà uno strillo e casca longa longa. Tetti in urlo de perva, gli strillai: a boiaccia, a famone, ho scellerato, ma hai ammazzato mamma. Come la perba me gli buttai addosso, gli agguantai la mano e strappai il coltello, e poi vidi tutto rosso, tutto rosso, e giù venai. Sarà mamma che passa. Mamma mia, mannatemi Arcoeli. A tocchi una campana suona, li turchi sono arrivati alla marina. Chi c'ha le scarpe rotte, la risola. Le mie l'ho arisolate stamattina. Come te posso amare, come te posso amare, se esco da sti cancelli qualcheduno l'ha da pagare. Amore, amore, mannami un saluto, che sto a regina coeli carcerato. Sto diventato un albero caduto, da amici e da parenti abbandonato. Come te posso amare, come te posso amare, se esco da sti cancelli qualcheduno l'ha da pagare. Se il Papa me donasse tutta Roma e me dicesse lascia sta chi t'ama, io gli direbbe no e no sacra corona, meglio l'amore mio che tutta Roma. Come te posso amare, come te posso amare, se esco da sti cancelli qualcheduno l'ha da pagare. Eh sì, de sfortunati ce n'è al mondo, uno di loro mi posso chiamare, butto una paglia al fiume e me va a fondo, all'antri e vedo il ferro galleggiare, come te posso amare, come te posso amare, se esco da sti cancelli qualcheduno l'ha da pagare. Se esco da sti cancelli, guarda che d'uno l'ha da paga. Se esco da sti cancelli, guarda che d'uno l'ha da paga. Quanta pena stasera c'è sul fiume che fiotta così. Disgraziato chi sogna e chi spera, tutti al mondo dovevo soffrire. Sì, c'è un'anima che cerca la pace, può trovarla soltanto che qui. Controcorrente, e quando canta l'ego si risente. Se è vero fiume che tutta è la pace, fiume affatato fammela provare. Più di un mese è passato da quel giorno che io dissi inè, quest'amore oramai tramontato, lei rispose lo vedo da me, sospirò, poi mi disse addio amore. Io però non mi scordo di te, i negozi appresso ma non arrivai, la cerco ancora e non la trovo mai. Se è vero fiume che tutta è la pace, me so pentito, fammela trovare. Proprio sotto al battello so di un grido con tonfo più là, poi se gira e ce fa il mulinello, poi s'affonna e riaffiora più in là. Soccorrete, c'è una donna affogata. braccia penava chissà. La luna da lassù fa capocella, rischiare il viso de Ninetta Bella. Me chiese pace, io gliel'ho negata. Fiume boiaccia gliel'hai data tu. Ci sono ancora gli soldati, non te muove. Non te muove, che appena se ne sono nati, scappavo. Amore mio, non respira, che se vede. Tira il fiato. Adesso andiamo via. Aspetta. Aspetta, gli soldati stanno a tornare. Che volete? Andate via? No. Voi non lo potete toccare. No. Vi prego. Rispettate il mio dolore. Per piacere. Non te muove, è imboccato. Se ne stanno andando via, ci lasciano da soli. Appena sono spariti, zompi in piedi e scappiamo come due lepri, eh? Aspetta, amore mio, abbi pazienza. Ecco, ancora un momento. Ecco, adesso. Adesso, Mario. Mario, alzati. Adesso. Mario. Oddio, Mario. Mario! No! Vabbè, l'hai detto Roma, con noi non te ci metti, ma quale strada batti? Se può sapere che aspetti. Per cui mo state zitta, non di fior de granato, io me sarò sbagliata, ma almeno ci ho provato. Scrivi de questo Roma, non basta usare il coltello, che per fregare padrone bisogna usare il cervello. Ad Osca! A bada che caschi! Non casco, me butto. Tanto per cantare, fa qualche cosa. E non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare puro senza voce. Sì. Tanto basta che c'è sta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute, dice, parte scarpe nuove, dice, e poi gira tutto il mondo, dice. E comunque in genere io mi accompagno da me, dice. Per fa la vita meno amara, me so comprato sta chitarra. E quando il sole scende e muore, mi sento un cuore cantatore. La voce è poca mantonata, non serve a fare la serenata, ma solamente a far maniera, e fa menzogno a prima sera. Tanto per cantare, perché mi sento un friccicone al cuore. Tanto per sognare, perché nel petto mi ce nasce il fiore. Fiore di là, che mi ricordi verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie. canzone belle appassionate, che a Roma mia ma ricordate, cantate solo per disperto, ma con la smania dentro al petto. Io non ve canto a voce piena, ma tutta l'anima è serena, e quando il cielo si scolora, dede nessuna se innamora. Tanto per cantare, perché mi sento principone il cuore. Tanto per sognare, perché nel petto mi c'è la schigliore. Morti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie, e mare in foglio di valer cucine. Raffaella Misiti e le Romane. Raffaella Misiti voce, Arianna Gaudio voce recitante, Annalisa Baldi chitarra, Desiree Infascelli fisarmonica. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Tiziano Panici, uno dei curatori del Festival delle Passeggiate a Roma dal 20 al 29 ottobre 2023, ben trovato. Ciao Federico, ben trovato, ben trovate, ben trovati gli ascoltatori e le ascoltatrici. Festival delle Passeggiate, solo camminando torneremo a innamorarci. Questo è il titolo che Dominio Pubblico ha scelto per questa iniziativa, coinvolgendo anche nella curatela Giuliana Nia, cantante, poetessa, anche illustratrice romana, che abbiamo incontrato in altri nostri progetti. Il Dominio Pubblico ormai è qualche anno che porta avanti progetti di arte pubblica, riqualificazione urbana, abbiamo lavorato molto sul Municipio Ottavo e abbiamo deciso di dedicare appunto questa prima edizione proprio a tre dei quartieri su cui abbiamo speso molte energie in questi ultimi anni, e sono Tormaranza, Palco San Paolo, che interesserà sia l'area di Vasca Navale, per intenderci, sia quella di Largo Veratti, e Montagnola. Questo perché sono tre quartieri che sono stati fortemente interessati in questi anni da interventi di arte pubblica e di street art, tra i quali anche i nostri, ma non soltanto ovviamente, e questi interventi hanno creato una vera e propria narrazione appunto urbana, ma soprattutto hanno attivato una serie di sinergie con attori del quartiere, parliamo di attori sociali ovviamente, associazioni, scuole, comitati, librerie, centri culturali, che chiaramente hanno lavorato insieme per la produzione di contenuti culturali e ovviamente non ultime le istituzioni che comunque hanno in qualche modo sempre sostenuto e monitorato questi progetti. Quindi così nasce l'intento di creare queste passeggiate per scoprire una Roma meno conosciuta, attraversarla insieme e far conoscere alle persone che passeggeranno con noi alcuni di questi protagonisti e di queste storie straordinarie che sono nascoste all'interno di tutti i quartieri di Roma, ovviamente non soltanto di quelli che abbiamo indicato. Quanti saranno gli eventi proposti e com'è stata la scelta artistica? Si concentreranno nei prossimi due weekend, quindi cominciamo con il primo weekend. Venerdì 20 e sabato 21 passeggeremo dalle 17 alle 19. Venerdì 20 siamo a Tormaranza, sabato 21 siamo appunto nell'area di San Paolo, mentre domenica mattina dalle 11 alle 13 saremo a Montagnola. Tutte le passeggiate ovviamente sono gratuite, vi potete prenotare seguendo i nostri canali, e le scelte artistiche diciamo che sono accompagnate anche da alcuni ospiti speciali che pensavamo insomma fossero fondamentali per in qualche modo creare questi momenti di rottura con la realtà e creare degli spazi di poesia. Il primo degli ospiti è Ariele Vincenti, che troverete venerdì 20 negli Ater di Tormaranza. È un regista e autore che tra l'altro ha scritto uno spettacolo su Ago ovvero Agostino Bartolomei, uno dei calciatori della Roma storica, che è nato e cresciuto nella borgata di Tormarancia, quindi ovviamente racconta in realtà un periodo e una fase storica molto particolare della città, e saremo all'interno appunto di questi cortili condominiali che sono stati riempiti di opere d'arte, e c'è un'associazione di quartiere che si chiama Tormaraste che da anni conduce le visite guidate all'interno di questi spazi molto particolari. Il nostro punto di incontro sarà al Parco della Torre, che è un'altra delle realtà del quartiere che presidia chiaramente una zona che ha molti contrasti al suo interno, ma che in qualche modo creano proprio il fascino di questo territorio così particolare da scoprire e che chiaramente è abitato dalla vita che tutti i giorni vive il quartiere. A San Paolo è una situazione più urbana, partiamo dalla stazione metro B di San Paolo, lì davanti c'è un parco che ospita Ciringhito Libre, da lì si arriverà al mercato Corinto di San Paolo e al centro culturale omosessuale Mario Mieli, dove potremo intervistare il presidente e alcuni dei membri dell'associazione per sentire la loro storia fortissima sul quartiere, ma in realtà anche come identità nazionale per la difesa dei diritti omosessuali LGBTQ+. Passeremo davanti a un bellissimo murales realizzato dall'associazione Urban 2030 e dall'artista JBL proprio per la tutela e la difesa di questi diritti, e da lì arriveremo nell'area più politicamente forse connotata di San Paolo, ad Acropax, davanti soprattutto alla Popolare, dove si aspetterà Diana Tejera, cantautrice e storica, diciamo anche assistente, in qualche modo persona che ha raccolto l'esperienza della poetessa Patrizia Cavalli, e in realtà scenderanno in strada con noi anche alcune pugilesse della Palestra Popolare per raccontare le loro storie insieme all'allenatore Jacopo Ricci. Domenica invece abbiamo un laboratorio dedicato ai più piccoli grazie all'arte di Roberto Capone, per fare un gioco che appunto permetterà ai genitori che vogliono seguire la passeggiata di poter lasciare appunto i loro figli a giocare e a costruire la città dei loro sogni con la cartapesta, e noi ci muoveremo da Piazza dei Caduti della Montagnola proprio per attraversare quella passeggiata che noi abbiamo chiamato la resistenza della memoria, sempre attraverso una serie di opere di street art e arte pubblica, ma incontrando anche luoghi della memoria molto particolari come il Casale Ceribelli, e stavolta sarà la voce di Lavinia Mancusi, folk singer, che ci riporterà al cuore canti della resistenza, perché è una giornata che abbiamo immaginato per resistere. Questo è il primo weekend. Il secondo non ve lo racconto così nel dettaglio, ve lo rilancio, ma sarà sempre la prossima settimana a partire da venerdì, quindi sempre venerdì, sabato e domenica. Venerdì torneremo a Montagnola, sabato saremo a Tormarancia, conosceremo moltissime delle realtà locali, sempre dalle 17 alle 19. Concluderemo in bellezza la domenica 29 di ottobre a Largo Veratti, dove abbiamo realizzato un progetto di murales tra i più importanti che sono stati realizzati negli ultimi anni, un racconto dedicato alle donne e al loro rapporto con l'arte e con la scienza, e in quell'occasione sarà con noi Emilio Stella, già cantautore e interprete, diciamo, della storia di molte donne delle case popolari, e verrà appunto a suonare con noi negli orti urbani intorno al Largo Veratti, e noi vi aspettiamo ovviamente per camminare e innamorarvi insieme a noi. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Trovate tutto sul sito www.dominiopubblicoteatro.it. Se vi ricordate di Dominio Pubblico, trovate tutte le informazioni anche sulla nostra pagina Instagram, su quella Facebook e anche TikTok per i diversamente giovani che sono sempre in ascolto, per l'appunto. Quindi potete scriverci, c'è una mail di prenotazioni e un numero di telefono a cui poter fare riferimento. Quindi su prenotazioni@dominiopubblico.com potete inviarci ovviamente la vostra richiesta di partecipazione. Noi vi informeremo meglio sul tragitto, sul percorso e sugli abiti da indossare a seconda se ci sarà il sole o se pioverà. Vi consiglieremo di portare l'ombrello, ma cammineremo comunque. Festival delle passeggiate a Roma dal 20 al 29 ottobre 2023. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Tiziano Panici. A presto! A presto, grazie! Con Chiara Becchimanzi, direttrice artistica delle Città Possibili, dal 22 ottobre al 26 novembre 2023. Ben trovata. Ben trovato, Federico, ciao. Che cos'è? Le città possibili è un festival multidisciplinare nato dall'idea di raccontare la città in una maniera un po' diversa rispetto a quella che viene utilizzata di solito, perché Ostia con le sue criticità se ne raccontano più che altro appunto le criticità oppure gli aspetti contraddittori, gli aspetti invece noi vogliamo raccontare l'altra Ostia, no? Per questo le città possibili, quelle che sarebbero possibili se solo ci fidesse tutti insieme la possibilità di guardare un po' più a fondo, un po' più là del nostro naso. E le città possibili è un festival che si articola secondo 6 percorsi multidisciplinari molto diversi tra loro per una totalità di 25 eventi tutti completamente gratuiti. Com'è stata la scelta artistica? Noi appunto volevamo dare molto rilievo alla multidisciplinarietà, perciò ci siamo intanto concentrate sulle invasioni artistiche, cioè sull'immaginare degli eventi che potessero rivalorizzare gli spazi urbani non convenzionali, quelli che normalmente non sono deputati agli eventi artistici. Quindi abbiamo scelto performance che potessero esserci utili in questo, e ne abbiamo scelte 3. Una è Flamenco e la Calle, a cura di Giorgia Celli, una danzata flamenchera nel Parco 10 Giugno che coinvolgerà anche musicisti e verrà fatta assieme alla cittadinanza di Ostia, quindi è proprio un evento che entra nel cuore della città. Poi un altro è dedicato all'archeologia urbana, quindi più sull'ecosostenibilità, e l'ultimo che si chiama In Love ed è un atto d'amore inaspettato e sconsiderato sempre in un'area urbana, per cui abbiamo cercato di, per esempio per quanto riguarda la valorizzazione degli spazi urbani, di coniugare sempre sia l'attenzione allo spazio che l'attenzione a tematiche che potessero interessarci. Ci sono vari filoni, sia per la rassegna di teatro ragazzi che tratta tra le altre cose anche di omofobia, di identità di genere, di parità, così come l'incontro in biblioteca per la presentazione di 3 libri assolutamente femministi. Insomma, abbiamo cercato di dare anche spazio alle tematiche che più ci stanno a cuore proprio come associazione da tempo, ecco. Come si articolerà rispetto ai luoghi e alle giornate? Le performance urbane si danno da Ostia a Dragona a Dragoncello, quindi sono pensate un po' per attraversare tutto il municipio 10, mentre per quanto riguarda la rassegna di teatro ragazzi si svolgerà tutta all'interno del Teatro del Lido, che è il polo nostro d'elezione, insomma quello del cuore. Anche altri eventi saranno all'interno del cortile del Teatro del Lido, cioè quelli dedicati al nuovo circo, e poi ci sarà la presentazione dei libri di cui ti parlavo prima, che sarà invece alla Biblioteca Sandro Onofri di Cilia. Una ulteriore attività che non è di spettacolo dal vivo, ma a cui teniamo molto, è la webserie che creeremo con i ragazzi e le ragazze del Carlo Urbani di Ostia. Una webserie che si chiama Piacce col punto esclamativo e ha appunto lo scopo di raccontare l'altra Ostia, l'Ostia che noi amiamo, per cui con i ragazzi abbiamo avviato il laboratorio per creare queste clip che sono concepite come reel di Instagram, quindi sono molto veloci per raccontare le cose che loro e noi amiamo di Ostia. Queste clip verranno poi proiettate prima di ogni evento all'interno del Teatro del Lido. Quanti sono le realtà coinvolte nel progetto? Il progetto è ideato da Valtrada, che collabora con l'associazione DTL, che è composta da tantissime associazioni del territorio e che come sempre ci dà la sponda per avviare il lavoro di rete sul territorio. Ovviamente il progetto esiste ed è possibile grazie al contributo di Roma Capitale per il bando periferie, per cui dobbiamo ringraziare giustamente Roma Capitale e poi tutti gli enti che ci ospitano, a cominciare dalla Biblioteca Sandro Onofri di Acilia e quindi l'ente Biblioteche di Roma. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Tanto gli unici eventi per cui è consigliata la prenotazione sono la rassegna di teatro ragazzi, in particolare 100 Cenerentole, e alcuni eventi di nuovo circo. La prenotazione viene effettuata via mail all'indirizzo valdradateatro@gmail.com. Per tutto ciò che riguarda il programma rimandiamo alla nostra pagina Facebook Valdrada Compagnia Teatrale, al sito www.valdradateatro.it, alla pagina Facebook del Teatro del Lido e anche al nostro profilo Instagram Valdrada Teatro. Il Festival Le Città Possibili, Municipio 10, dal 22 ottobre al 26 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Chiara Becchimanzi. A presto! Grazie, a presto! Con Dario Aggioli, direttore artistico della seconda edizione del Festival Chapiteau, il Circo del Teatro, a Roma, a Villa Bonelli, dal 25 ottobre al 5 novembre 2023. Ben trovato. Grazie Federico, ormai noi ci sentiamo sempre. Sono molto contento di essere in radio con te. Raccontiamo cos'è. Chapiteau intanto è scritto come si legge, ma in verità si dovrebbe scrivere alla francese e vuol dire un tendone da circo. E infatti si chiama il Circo del Teatro. Vuol dire semplicemente che noi portiamo con un mezzo da guitti il teatro in un municipio dove il teatro popolare non c'è. L'undicesimo municipio, che è un municipio molto esteso, che va dall'inizio di Trastevere, da Piazza della Radio, fino a Corviale, e ha solo dei teatri che hanno una risonanza più nazionale quasi, come l'India o come Rossellini, ma non c'è un piccolo teatro, c'era l'Arpaglia, ma non c'è nulla. E perciò noi abbiamo deciso di trovare una modalità per portare in periferia il teatro, un teatro con una drammaturgia contemporanea, ma molto vicino al pubblico. Come saranno articolate le giornate? Intanto, rispetto all'anno scorso, perché appunto questa è la seconda edizione, abbiamo deciso di fare una programmazione tutti i giorni, dal mercoledì 25 a domenica 5. Avremo tutte le sere spettacolo per adulti, mentre spettacolo per ragazzi sarà il sabato alle ore 15 e la domenica stesso spettacolo, doppia replica, 10:30 e alle 15. Pensiamo con Tony Piston Circus, che sono i miei soci, perché Chapiteau è ideato insieme agli altri di Consorzio Alte Produzioni Indipendenti, anche se quest'anno poi è promosso da Teatro Macondo, che è una delle tre anime di questo consorzio. L'altra, oltre a Teatro Porzionato, della mia, è Tony Clifton, che apre il festival con uno spettacolo che non fa a Roma, o penso proprio in Italia, da 13 anni. Poi abbiamo Rumore di Fondo, uno spettacolo molto popolare, ma come musica, tra l'altro popolare come modalità, ma poi invece come tema è interessantissimo, perché si parla di femminicidio e soprattutto anche quel femminicidio che quasi diventa un omicidio di Stato, perché viene più volte denunciato e le persone un po', cioè la distruzione, dimenticano le donne. Poi c'è Frivola, che è il primo spettacolo di una grandissima attrice giovane, Lucia Mariani, ed è il primo spettacolo. Poi c'è Sergio con Francesca Sartianesi, che è stata candidata a Lupo per questo spettacolo. Poi abbiamo domenica Il Bando Ingiusto, che è una cosa che probabilmente tu ricorderai, l'ho fatta nei vari posti che ho diretto, un bando che prende un po' in giro i bandi, ma dove si sono iscritti tra l'altro un bel po' di persone. In un mese abbiamo avuto più di 40 iscrizioni a questa folle corsa al nulla. Poi c'è Romnia, lunedì 30, uno spettacolo a cui ho partecipato anch'io, prodotto da Rampa Prenestina, Spin Time, e soprattutto anche con i soldi di un finanziamento europeo, ed è uno spettacolo che parla e ha attori rom. Romnia vuol dire donne, ma vuol dire anche mogli in romanesse. E perciò è come evolve la società rom attraverso gli occhi delle donne. Poi abbiamo Rosina, che è uno spettacolo sul gap generazionale in Calabria e soprattutto tra nipoti e nonne, cioè Rosina, la nonna che parla di questa grossa differenza, con Diros e la Guidete. Poi abbiamo Piotra Popolare, uno spettacolo omaggio a Domenico Modugno di Gianfranco Berardi, compagnia Berardi Casolare, spettacolo musicale, Gianfranco premio UBU come miglior attore, un attore soprattutto quello che racconta è sempre la difficoltà. Ma a volte parlando anche delle sue difficoltà, perché lui è un attore non vedente, ma veramente è l'ultima cosa che uno si accorge sulla scena. Poi c'è Action Robot, spettacolo storico di Daniele Timpano, appena incisore anche lui di direttore da drammaturgo, insieme a Elvira Rosini, che è sua moglie. Action Robot, spettacolo sull'arrivo dei cartoni animati giapponesi in Italia. Poi c'è Le Anticotini Riff, Andrea Cosentino, un grandissimo amico, un grandissimo artista, che fa questo gioco folle. Poi c'è il mio spettacolo, il Figurino Incanti del 1978, che anche tu hai tantissimi anni fa trasmesso in radio, ed è uno spettacolo tragicomico sulla storia dei Saparisidos e i mondiali di calcio che stuccero proprio in Argentina in quel momento, per quasi santificare quella dittatura. E poi finiamo con Scarabocchi, uno spettacolo di Teatro Rebus, una compagnia delle Marche, che mette in scena i fumetti di Michael e Mirko. Attenzione, i fumetti di Michael e Mirko non sono adatti ai minori. Dico anche quelli per bambini, sono quattro, il sabato 28, domenica 29 e poi abbiamo sabato 4 e domenica 5. Il gioco dei meti di Teatro Macondo, appunto sulla mitologia greca, Alberi miei, uno spettacolo molto legato al discorso della natura. E quattro abbiamo Officina Prometeo di Picciotti, che è uno spettacolo che parla del mito di Prometeo. E poi finiamo con un divertentissimo, Lo strano caso di Tre Polsegui, fatto da Brum Brum Grid, che praticamente sono il nanocidio. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? consorzio Altri Docenti per i Tempi, tutti, sulla home trovate nelle news per cliccare sia sul festival sia sul programma dettagliato. Consorzio Altre Produzioni Indipendenti.it. Inoltre vi do il numero per prenotare, che è il 392-2546-174. Seconda edizione del Festival Chapiteau, il Circo del Teatro, a Roma, Villa Bonelli, dal 25 ottobre al 5 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Dario Aggioli. Alla prossima! Grazie mille. Grazie, grazie. Con Stefano Cioffi, direttore artistico della 25esima edizione del Festival Flautissimo a Roma, Teatro Palladium, Teatro del Lidio e Teatro India, dal 29 ottobre al 16 dicembre 2023. Ben trovato. Grazie e ben trovati a tutti gli ascoltatori. Per chi non lo conoscesse, cos'è? Flautissimo è un festival ormai storico, si propone come un cartellone trasversale che abbraccia esperienze di musica e teatro. Il nome tradisce la sua origine, che era dedicata alla musica da camera per flauto, ma negli anni, ormai tanti, perché la storia è quella di un quarto di secolo, si è allargata ad altre esperienze dello spettacolo dal vivo e si presenta oggi come un appuntamento vario e caleidoscopico con esperienze di teatro e musica classica, musica pop, musica world, musica jazz. Quest'anno soprattutto world. Quanti sono gli appuntamenti e com'è stata la scelta artistica? Gli appuntamenti sono 7 di teatro puro e sono 6 di musica da camera per flauto, tutti concentrati in 3 luoghi, che sono il Teatro Palladium, il Teatro del Lido e il Teatro India. La scelta è dettata dal tema dell'anno, che è Sogni a occhi aperti. Noi per tanti anni abbiamo indagato un po' nel sommerso e nel torbido della nostra società, soprattutto delle nostre città, e dopo anni di riflessione su questi temi ci siamo dedicati piuttosto a un tema di speranza e di pace, quindi un sogno che è il sogno quello di rivedere una realtà, soprattutto in questi giorni che ci stanno accompagnando, di guerra. Sogno di rivedere un panorama e uno scenario mondiale molto più aperto alla pace e al desiderio di condivisione, di apertura, di accoglienza e di inclusione. Come si articolerà rispetto alle giornate e ai 3 luoghi? Inauguriamo domenica 29 con Maria Paiato, con una lettura di Gentiluomo in mare, un testo di Herbert Clyde Lewis, un drammaturgo che ebbe una vita travagliata, molto poco conosciuto, ma che con questo libro pubblicato da Adelphi un anno fa ha avuto finalmente anche in Italia un riconoscimento di grande scala. Continuiamo poi subito dopo al Teatro del Lirio con la presenza di una giovanissima e pluripremiata compagnia, Carla e Altri, con una drammaturgia di Giulia Bartolini dal nome Canaglie, e riapprodiamo nuovamente al Teatro Palladium il 12 novembre con la presenza a Roma, dopo tanto tempo, con una prima romana di Dario Vergassola, che ci racconterà le sue famosissime storie sconcertanti, questo testo in cui ha voluto un po' immaginare la vita vista anche da un altro mondo, cioè dal mondo animale. E dal Teatro Palladium passiamo subito dopo il 18 novembre al Teatro India con un'altra prima romana, ed è un omaggio alla poetessa Patrizia Cavalli con Vita Meravigliosa. Una drammaturgia pensata, ideata e diretta da Iaia Forte e accompagnata dalle musiche di Diana Teghiera. Seguirà di nuovo al Teatro Palladium un appuntamento con i Radio Dervish, che tornano per il secondo anno consecutivo al Festival Flautissimo, con un appuntamento particolare, perché anche loro, come noi, celebrano i 25 anni dal loro primo album e indagheranno un po' la canzone d'autore mediterranea in un'esperienza tutta nuova dal titolo Cuore Meridiano. Primo dicembre, sempre al Teatro Palladium, accogliamo una replica di quello che noi abbiamo già presentato lo scorso anno, ma che con il tutto esaurito dello scorso anno poi aveva in qualche modo reclamato una nuova presenza. Abbiamo Fabrizio Bentivoglio e Ferruccio Spinetti in Lettura Clandestina, un testo elaborato da Fabrizio Bentivoglio sulle parole di Ennio Flaiano. E chiudiamo l'esperienza teatrale con una prima nazionale, o la prima assoluta, di Sandro Bonvissuto, Il giorno in cui mio padre mi ha insegnato ad andare in bicicletta, interpretato da Valerio Prea, con due date, il 15 e 16 dicembre al Teatro India. E segnaliamo infine i sei grandi concerti da camera in un weekend denso di attività il 9 e 10 dicembre al Teatro Palladium, con la presenza di tutti i più grandi flautisti internazionali e tutte le prime parti delle maggiori orchestre del mondo, e parlo veramente delle più grandi in assoluto, a cominciare dai Berliner Philharmoniker, le Wiener Philharmoniker, il Concertgebouw di Amsterdam, l'Orchestra Nazionale de France, Radio France, l'Orchestra del Carro alla Scala, l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, insomma il meglio del meglio. Tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? flautissimo.it. Per le informazioni potete scrivere a produzione@accademiaitalianadelflauto.it e avete la possibilità di anche acquistare i biglietti sul sito flautissimo.it. 25esima edizione del Festival Flautissimo a Roma, ai teatri Palladium, del Lido e India, dal 29 ottobre al 16 dicembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Stefano Cioffi. A presto! A presto e vi aspettiamo numerosi. Con Flavia Mitolo, una delle organizzatrici dell'ottava edizione della Settimana dell'Arte Contemporanea Roma Art Week, dal 23 al 28 ottobre 2023, ben trovata. Ciao Federico, grazie per questa chiamata e questa tua promozione. Salve. Lunedì aprirà l'ottava edizione della manifestazione Roma Art Week, che ha una cadenza annuale. Ogni anno proponiamo sempre più cose e la partecipazione delle persone è sempre maggiore. Quest'anno siamo quasi a 800 iscritti, con 400 appuntamenti tra eventi, esposizioni, open studio. Apriremo lunedì appunto con una mostra a Palazzo Altieri in Viale Manzoni, è una mostra internazionale con 50 artisti italiani, romani, ma molti stranieri anche. Ci sarà un'installazione molto importante realizzata da un artista ucraino e un artista russo, che collaboreranno per promuovere la pace nel mondo. E la Roma Art Week quest'anno, come ben sai, è tutto visitabile sul nostro sito romaartweek.com. è una piattaforma che riunisce artisti, curatori e strutture di vario genere, perché ci sono accademie, fondazioni, gallerie, che si apriranno a titolo completamente gratuito per poter mostrare i loro progetti ai visitatori. Tra l'altro è da qualche anno che organizziamo delle piccole visite guidate a cui la gente si può iscrivere sulla nostra piattaforma, e sono percorsi proprio strutturati in giro per la città, sono passeggiate che si fanno a piedi con pochi visitatori, per poter appunto passare da uno studio a una fondazione, a un museo, che per questa occasione si metteranno a nostra disposizione. È importante ricordare che tutto ciò è a titolo gratuito, sia le aperture che anche la disponibilità nostra, ma anche dei ragazzi che faranno da accompagnatori per queste visite guidate. Tutto a titolo gratuito e di volontariato, perché crediamo molto in questo progetto che appunto sta crescendo di anno in anno. Come ha funzionato la scelta artistica? Ci si può iscrivere gratuitamente appunto sul nostro sito. Poi ci sono degli esperti che si occupano di artisti, di strutture, che selezionano attraverso l'invio dei loro lavori, dei loro progetti, e purtroppo c'è una selezione anche abbastanza stretta. La manifestazione coinvolge tutta la città, dal centro alla periferia? Tutta, completamente, ripeto, in maniera sempre più diffusa alle periferie, certo, senz'altro, il centro, proprio per mettere in evidenza che a Roma esiste una realtà molto forte che lavora nel campo dell'arte contemporanea, che purtroppo è un po' messa da parte perché sappiamo bene che spesso i visitatori, i turisti stranieri vengono per ammirare le bellezze storiche che abbiamo nella città, ma questo fa sì che metta in evidenza anche quella buona parte di persone che lavorano in questo settore. Tra l'altro da un paio di anni ormai collaboriamo anche con tante strutture alberghiere che si sono iscritte per ospitare degli artisti e creare delle sale espositive ad hoc. Ci tengo a ricordare che Room Art Week è realizzata con la collaborazione dell'assessorata ai grandi eventi, sport, turismo, moda del Comune di Roma, che comunque è patrocinata dal Ministero della Cultura, dalla Regione Lazio, dall'assessorato alla cultura di Roma, Sapienza, ma anche Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia e Storia dell'Arte e CIU, che è l'Unione per le Professioni Intellettuali. Tutte queste realtà unite per far decollare una manifestazione unica nel suo genere a Roma, e devo dire con orgoglio che è sempre più partecipata e diffusa ogni anno, con sempre più iscritti e sempre più eventi. Ottava edizione della Settimana dell'Arte Contemporanea Rome Art Week dal 23 al 28 ottobre 2023. Un saluto e un ringraziamento a Flavia Mitolo, una delle organizzatrici. A presto! Grazie Federico, grazie. Con Sabino Civilleri del collettivo artistico Genia, che organizza la quarta edizione del Prima Onda Fest a Palermo dal 25 ottobre al 6 novembre 2023, ben trovato. Ben trovati anche voi, grazie per l'ospitalità. Una piccola correzione, il nostro festival inizia il 20 ottobre con un'anteprima. Ah, ok. Con lo spettacolo Musa di Ugo Giacomazzi e Serena Ganci, prodotto da Babel Teatro, che appunto è una casa di produzione palermitana. Il festival è una composizione di diversi elementi che sono stati scelti precedentemente, insomma, alla scelta pure degli spettacoli, ovvero noi abbiamo un comitato scientifico fatto da università, ma non solo, anche liberi professionisti, artisti da tutta Italia, anche europei. All'interno di questo comitato scientifico viene redatto un piccolo documento, una ventina di righe davvero, in cui si segnano le traiettorie a cui le direzioni artistiche faranno fede per la programmazione e la scelta degli spettacoli. Quest'anno, insomma, nell'ottica del triennio ministeriale, la nostra attenzione si è concentrata sul mondo delle periferie, che è una continuità rispetto all'anno scorso, precede la città metropolitana di Palermo e quindi anche a un concetto di riqualificazione dei luoghi attraverso appunto la programmazione artistica, ma anche tutta una serie di progetti collaterali. E poi sono i due temi cardini della programmazione, del documento del comitato scientifico che hanno determinato la programmazione, sono stati la diversità declinata da tanti punti di vista e anche un piccolo accenno all'accessibilità all'arte e agli spazi dedicati all'arte. Dico un piccolo accenno perché quest'anno soltanto uno degli spettacoli dei 28 che programmiamo sarà accessibile anche ai diversamente abili di diversa natura, perché abbiamo iniziato un progetto con un'associazione di Brancaccio che opera all'interno di uno spazio confiscato alla mafia e che si occupa di diversità e di disabilità, ma anche di accessibilità. Con questa appunto associazione abbiamo fatto questo scritto, redatto appunto un primo progetto per rendere uno degli spettacoli del festival quest'anno accessibile. Questo ci dà la potenzialità per il prossimo anno di riuscire a determinare una programmazione che vede tutti gli spettacoli accessibili a tutte le diversità, abbattendo appunto una sorta di muro che in questo momento soprattutto i piccoli spazi, ma anche le piccole organizzazioni hanno, cioè quello di poter investire su determinate traiettorie. Il festival poi ha anche dei piccoli accenni a un cantiere poetico che è frutto di un progetto che ha vinto il Boarding Pass, che è il Teatro dei Venti, che è un progetto europeo che è alla sua seconda tappa a Palermo e che sta accompagnando una mega produzione di Teatro dei Venti. Questo progetto di cantiere poetico nasce con loro, continuerà nei prossimi anni, ma è interessante perché nasce in una delle zone che vive il più grande contrasto nello sviluppo e nella riqualificazione della città metropolitana di Palermo, cioè Sant'Erasmo. Sant'Erasmo vive un momento di recupero edilizio, sia pubblico che privato, ma vede anche a fianco situazioni di grandissimo degrado sociale, culturale e anche, ahimè, abitativo. Nel complesso, quanti sono gli appuntamenti e com'è stata la scelta artistica? Gli appuntamenti sono 28 in tutto, con qualche doppia recita. Abbiamo delle ospitalità che hanno guardato ai giovani. Abbiamo dei drammaturghi di nuova generazione, abbiamo anche vecchi drammaturghi che hanno fatto un po' la storia sia di Palermo che del teatro italiano, come Maranta, Armando Punzo. Ma abbiamo anche appunto Domenico Ciarramitano, che è un giovanissimo palermitano, che è in programmazione con lo spettacolo Saro, che è lo spettacolo che renderemo accessibile appunto a tutti e a tutte. Poi abbiamo Bernardo Casertano, abbiamo Tania Garriba e Valentina Minzoni, che sono due giovanissime appunto, anche loro, drammaturghe e regista. E come abbiamo scelto? Abbiamo scelto facendo un monitoraggio che inizia a novembre, cioè alla fine dell'edizione precedente, e ci vede impegnati in viaggi, relazioni, comprensione, capire profondamente che cosa, da dove è nato lo spettacolo che vogliamo programmare, che vita ha avuto, che difficoltà ha attraversato, se ha avuto una vita quello spettacolo, che è possibile essere prodotto, fatto una volta e poi si è fermato. Inoltre noi cerchiamo sempre di creare un rapporto personale con l'artista che programmiamo, nel senso che cerchiamo di farlo stare più tempo possibile quando quel festival ha inizio, perché cerchiamo di capire anche tutta una serie di problematiche che gli artisti in giro per l'Italia vivono e che noi vorremmo condividere con loro, nella speranza di poter dare anche un piccolo aiuto, un piccolo sostegno. Ed è da un progetto che noi abbiamo ospitato alla seconda edizione fa. Oggi è nato un progetto di coproduzione con un teatro e una compagnia di Marsiglia, ad esempio. Quindi questa è una cosa molto importante, una piccola compagnia di Marsiglia che sta avendo da noi un appoggio a una nuova creazione, come la chiamano loro. Quindi scegliamo soprattutto sull'artista, cerchiamo quelle realtà artistiche, individuali e collettive, che dentro abbiano quella parola ormai orrenda che nessuno vuole dire più, come la peste, è un percorso di ricerca. Riferimenti web per i dettagli del programma? Il sito è genialabart.eu e poi abbiamo il sito di Copculture, e poi avremo le biglietterie soprattutto all'Ecomuseo, ma grazie alla collaborazione con Copculture, che è una novità di quest'anno, i biglietti del festival possono essere comprati anche al Palazzo Steli e all'Orto Botanico di Palermo, non solo grazie a Copculture che ci offre il servizio, ma anche alla collaborazione che Genia Laboratori Artisti di Palermo ha con l'Università di Palermo e con il Dance di Palermo. Quarta edizione del Prima Onda Fest a Palermo dal 20 ottobre al 6 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento a Sabino Civilleri del collettivo artistico Genia che organizza. A presto! A presto e grazie sempre dell'ospitalità. È il momento dell'agenda per gli eventi culturali, soprattutto teatro, ma anche ciò che si muove in città. Ben trovato Simone di Teatro e Critica. Ciao a tutti e buon pomeriggio. E andiamo a vedere un po' quale teatro ci offre questa settimana, con insomma offerte variopinte, giovani, meno giovani, insomma, vediamo un po'. Intanto partiamo dal nostro consueto viaggio a Tor Bella Monaca, al Teatro Tor Bella Monaca, perché ad aprire la settimana, da stasera fino a venerdì, ci sarà il testo L'Asino, con la regia di Luca Iumiento per Teatri Morisani e Gloria Meta Teatro, in scena Anna Paola Vellaccio e Stefano Sabelli, e il testo L'Asino è scritto dal drammaturgo norvegese Jon Jesper Halle, che ho pronunciato credo in un modo indegno e però vorticoso, vertiginoso, affetto critiche diciamo dai puro sangue madrelingua norvegesi. Detto questo, si tratta di una dark comedy che mette in scena il lato oscuro della quotidianità scandinava dietro l'apparente perfezione borghese e pervenito nord-europeo, tutte le ansie e le paure che si mescolano a questa rabbia repressa, le frustrazioni di quella cultura. 24-27 ottobre per L'Asino, la regia di Gianluca Iumiento. Segue 27-28-29 L'Avaro Immaginario, una sorta di mescolanza tratta da Molière, fatta da Luigi De Filippo, lo spettacolo teatrale diretto da Enzo De Caro, insieme alla compagnia Luigi De Filippo, con insomma gli attori che sono rimasti, che l'hanno resa celebre, Sono 7 quadri, un prologo e un epilogo, un viaggio nel teatro di Molière, appunto l'avaro e il malato immaginario si mescolano per questo spettacolo con una sorta di commistione fra i due testi. Poi invece, sempre fine settimana, sabato 28 e domenica 29, sempre Teatro Molisani presenta la prima versione italiana di Abraham's Barn, figli di Abramo, un patriarca, due figli, tre fedi e un attore. Sempre c'è l'Orecchiomento che presenta questo monologo, il diario di viaggio di un attore che da Gerusalemme si mette alla ricerca di alla ricerca dell'Abramo perduto. Credo di averlo visto questo spettacolo. Qualcosa mi dice che. Bene, questo per quanto riguarda Tor Bella Monaca. E allora, invece, andiamo a vedere ancora cosa c'è questa settimana al Centrale Premesse, perché la rassegna U3 The Young City continua ad andare avanti, diretta da Tiziana Lucattini, e questa settimana, sabato 28, presenta All You Can Wax di Enoch Marrella, spettacolo che vinse tutto teatro, tanti cappelletti, tutto teatro.com, siamo nell'ottobre 2021, nella seconda ondata del Covid. Non volevo certo vaccinarmi, dice Enoch Marrella, nella prima farmacia sotto casa. Una vaccinazione è pur sempre un'esperienza da ricordare, da raccontare e da recensire. È importante saper scegliere un servizio e valutarne la qualità. Quindi torna dietro le tante contraddizioni e frustrazioni del periodo che riguarda, insomma, la nostra vita nel momento in cui abbiamo scoperto la pandemia di Covid-19. E quindi è Centrale Premesse sabato 28 con All You Can Wax. Poi andiamo anche al Teatro del Greco Quarticciolo, perché c'è teatro per le nuove generazioni, Mirrors, fuori contesto, spettacolo che sta in scena domenica 29 ottobre alle ore 17. Chi sono? È la domanda su cui si interrogano i due protagonisti dello spettacolo, Alex e Alex, sospesi dal bambino che erano e l'adulto che verrà. Intorno allo spettacolo che ho già visto, questa era la giornata di 6 giorni. Questo è scritto e diretto da Emilia Martinelli, in scena che sono Carlotta Solidea Aronica e Michele Breda, più morigerato diciamo del nome. Pomeriggio del domenica 29 ottobre alle ore 17, Teatro Biblioteca Quarticciolo con appunto Mirrors. Andiamo poi anche in altri teatri, vediamo un po'. Dunque, intanto segnalo che questa settimana andremo anche al circo, perché abbiamo l'inizio di Chapiteau, il circo del teatro a Villa Bonelli, dal 25 ottobre fino al 5 di novembre, 12 giorni di programmazione appunto all'interno di Chapiteau, spettacolo di drammaturgia contemporanea appunto e all'interno di uno Chapiteau circense. Il festival si apre con uno spettacolo reading della compagnia Tony Clifton Circus, che appunto in campo di circo, in merito al circo, insomma, sanno che cosa dire. Poi andremo a vedere altri lavori, vado a segnalare nell'ordine, appunto mercoledì 25 si apre con Tony Clifton Circus, Made Igual è lo spettacolo che presenteranno a Villa Bonelli. Giovedì 26, Rumore di fondo di Teatro Segreto con la Regina di Abbaldi. Trento, spettacolo di Lucia Traffella Mariani, presenta Frivola, confessione sull'insostenibile bisogno di ammirazione, venerdì 27 ottobre. E invece, per quanto riguarda il weekend, abbiamo un paio di spettacoli. Il primo, Il gioco dei miti, per ragazzi, alle ore 15, sabato 28, di e con Alessandra Chieri e Francesco Petti. Allora li ricordo, diciamo, come autori di spettacoli soprattutto legati a Cortázar, quindi insomma sul gioco hanno di poter dire la loro. Sabato sempre 28 la sera ci sarà Sergio di Francesca Sartianese e Tommaso Kelly, mentre invece domenica è la volta di Il Loco Teatro con Alberi Miei, Annalita Colucci, quindi per ciò che riguarda il teatro per le nuove generazioni. Ma segnalo anche che noi ci sentiremo appunto martedì, ma lunedì alla Rampa Prenestina, sempre a Villa Bonelli, la compagnia della Rampa Prenestina presenta Romnia, questo spettacolo che abbiamo appena visto al primo festival di teatro a Roma nelle scorse settimane a Spin Time, e invece in questa occasione andremo appunto a vedere lo andremo a vedere a Villa Codelli, il 3, lo spettacolo che racconta un po' la condizione femminile all'interno di un campo rom, all'interno della cultura rom. Invece a Teatro dei Servi, dal 24 ottobre, ovvero sia da stasera fino al 5 di novembre, andiamo a vedere questo testo di Ray Cooney e John Chapman, regia di Matteo Vacca. Matteo Vacca, mi ricorda qualcuno? Se non sbaglio, io Matteo Vacca fu uno dei primi attori che io vidi in teatro ormai 15 anni fa, quindi va, sarei anche curioso di vedere questo lavoro. Si tratta di Il letto ovale. Che cosa faresti se un amico di chiarezza in casa in prestito per una seratina piccante con la sua amante? Ma cosa succederebbe se la migliore amica di tua moglie facesse la stessa cosa con lei la stessa sera? Ecco, questo effettivamente è un po' una butade che può provocare sicuramente qualche conseguenza. Andiamo a vedere anche al Teatro Lo Spazio il 5-29 ottobre Charlie danza Charlotte, omaggio a Charlie Chaplin, le musiche dello stesso Chaplin, la coreografia e la regia di Mario Piazza, quindi appunto la danza che cerca di indagare il movimento di Charlie Chaplin, ovvero sia Charlotte, al Teatro Lo Spazio. Mentre invece al Teatro Lo Studio, dal 26 al 29 di ottobre, la regia di Greta Zamparini e Federica Bognetti presenta appunto in scena, ci sarà Greta Zamparini stessa, la coreografia di Lara Guidetti, Temporaneamente tua, una riduzione dei testi di Concita De Gregorio tratti da Malamore, il suo libro che in edizione in audio insomma si trova serenamente in libreria. Un viaggio nella sessualità, in particolare nel mondo della prostituzione, le tante domande che appunto accompagnano questo mestiere, o comunque lo si voglia definire, sarebbe lunga la definizione, ma insomma lasciamo allo spettacolo di farci capire un po' che cosa ce ne dirà. Comincia questa settimana anche l'edizione 25 di Flautissimo Festival, con il debutto il 29 di ottobre al Palladium alle ore 18, con Maria Pagliato che presenta Gentiluomo in mare, Herbert Clyde Lewis, questo testo che apre la sezione Parole, Teatro e Musica di Flautissimo, e appunto lo andremo a vedere al teatro Palladium, un testo che magari frequentiamo anche poco. Dura un giorno l'avventura di Harry Preston Standish dall'alba al tramonto, la metafora di un'intera vita appunto in una sola giornata, quindi dalla nascita alla morte, dall'alba al tramonto. Andremo a cercare di capire tutto ciò che si intravede dell'essere umano dalla vita di Harry Preston Standish, ovvero di Gentiluomo in mare, con Maria Pagliato, alle ore 18 di domenica 29 al Teatro Palladium. E poi ancora, perché qua sembra che noi possiamo dire invece no, perché al Teatro Belli questa settimana abbiamo un po' di spettacoli, e andiamo con ordine. Questa sera Clay Dowie con Sweet Primark and Die, la regia di Daphne Rubini, con Cela Martina Gatto, quindi siamo ancora nell'ambito della drammaturgia britannica, con appunto Claire Dowie. Mentre 26 e 27 andremo a vedere ancora brani tratti da Being at Home with Claude di René Daniel Dubois, In casa con Claude 2.0, lo spettacolo di Giuseppe Bucci. E mentre invece 28 e 29 torneremo, diciamo, a più miti consigli, perché Carlo Migliorelli ci porta dentro Il sogno di Ipazia con Francesca Bianco. Questa è la settimana del Teatro Belli, e noi direi che andiamo anche al Teatro Basilica, perché dal 27 al 29 ottobre lo spettacolo documentario di Paola Dimitri sulle geografie dei luoghi, cioè vita, amore, morte e rivoluzione, con la creazione cinematografica di Davide Crudetti, appunto sarà sulla scena del Teatro Basilica, dopo aver debuttato a Roma Europa Festival con appunto la video installazione Da qui in poi ci sono i leoni. Questo spettacolo cerca di andare a riflettere su quali sono le geografie dei luoghi, entità vive costituite da elementi naturali, umani e industriali, sull'impatto delle attività umane hanno su di essi la cartografia che traspare in filigrana è quella di Taranto e tutto ciò che Taranto rappresenta per l'immaginario della nostra società italiana contemporanea. Quindi senza che io dica altro, peraltro in merito a Taranto e alla questione legata all'Ilva, legata ai grandi scandali industriali che riguardano quella vicenda, è appena uscito Palazzina Lazzo al cinema, il primo film da regista di Michele Riondino, che appunto racconta una storia molto interessante, ma che invito ad andare a fare qualche ricerca in merito perché ne vale, direi, la pena. Per quanto ci riguarda, noi andiamo questa settimana anche, sicuramente andiamo al teatro Ombra Iovinelli, perché continua Augusta, Osage Country, lo spettacolo di Filippo Dini, mentre invece dal 25 al 29 ottobre al Teatro Vascello andiamo a vedere La fabbrica degli attori, questo spettacolo con la regia di Giacomo Bisordi, che mette in scena il suo lavoro a partire dal romanzo La scuola cattolica di Edoardo Albinati, che vinse nel 2016 il premio Strega, scusate ma ho improvvisamente un po' il singhiozzo come quando ero bambino, con molti attori, quindi insomma chi ha visto c'è anche il film insomma da qualche parte, dal 25 al 29 ottobre al Teatro Vascello, La fabbrica degli attori con la regia di Giacomo Bisordi. Si tratta della prova finale dell'ultimo anno del corso di recitazione dell'Accademia Silvio D'Amico, appunto si confrontano con il capolavoro di Edoardo Albinati, La scuola cattolica, e appunto ne viene fuori la drammaturgia di gruppo, quindi chissà che non è il caso di andare a dare un'occhiata. Ancora però, perché al Roma Europa Festival questa è la settimana di Anni Luce, ovvero sia la sezione dedicata alle nuove forze creative della scena italiana, e il 25, appunto domani, 25 ottobre, partirà la rassegna. Andremo a vedere due spettacoli questa settimana, il 25 e il 26 ottobre. Giovanni Onorato, che presenta in prima nazionale il suo Alde, non ha mai voluto essere qui, una commistione tra drammaturgia, rap, cantautorato, poesia e ironia. E poi l'altro lavoro abbastanza ironico è quello di Greta Tommesani, Canicinica. Ecco, questo è effettivamente perché è tutto puntato a sillabe, che costruisce una riflessione politica sullo sfruttamento sui luoghi di lavoro, ma con un linguaggio leggero e ironico, insomma, è assolutamente da non perdere queste aperture così particolari su ciò che viene presentato appunto da questo Canicinica di Greta Tommesani. Mentre invece per Power by Resp, ovvero sia la promozione del sostegno alla creatività Under 30, andremo a vedere nell'ordine 28 e 29 Cromo Collettivo Artistico con Ahmen, Alice Dalli Singhiaglia con il Concerto Fetido su Quattro Zampe, Pietro Giannini con La Traiettoria Calante. Quindi da non perdere questi lavori, e segnalo anche che dal 27 al 29 ottobre, sempre per Roma Europa Festival, tornano i salotti di Ghost Black, di Gioia Salvatore e Simone Alessandrini, che hanno vari ospiti, insomma ogni giorno presentano ospiti speciali. Segnalo forse soltanto che domenica insieme a Carmine Iuone e Daniele Parisi avremo l'onore di ospitare al mattatoio, cioè il dottore Simone Alessandrini ospiteranno Giovanni Truppi, grande cantautore. E questo è tutto anche per Roma Europa Festival, e direi che noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao! Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.